Ora, manca solo un minuto. Io ho chiesto prima, quando abbiamo deciso di parlare di questo argomento, dei difetti delle compagne, dei mariti e delle mogli, mi è tornato in mente un ascoltatore che avevamo sentito tempo fa per un altro argomento, ma che tutti quanti ricordano molto bene, ed è Giacomo da Catania. Pronto, Giacomo? Sì, ciao, Matteo. Come stai, Giacomo? Ma diciamo che ci difendiamo. Benissimo. Perché non possiamo attaccare. Vabbè, Giacomo, senti, aspetta un attimo che ti introduco velocemente, che ho 50 secondi, per chi non se lo ricordasse. Giacomo è un ascoltatore che aveva chiamato per parlare dei suoi sogni in cui lui volava sopra la città di Catania, ma a un certo punto io gli chiesi, ma tua moglie le racconti queste cose? Lui mi disse, io a mia moglie non ci parlo. E io allora vorrei o dico l'essenziale, tu mi dicesti, Giacomo. Ora, io vorrei capire, dimmi quali sono tre difetti di tua moglie, Giacomo, così che cerchiamo di ricucire questo rapporto. Allora, un primo difetto è che io parlo con una certa logica, perché come ho detto prima sono appartenente al segno della Vergine, ma non è qui, per questo voglio essere presuntuoso. Certo, certo. Perché in primo piano io metto la logica nella discussione. Benissimo. Cosa che mia moglie non fa. La logica non sa nemmeno dove non fa. Io devo chiudere ormai, siamo già ritardissimo. Dimmene un altro, Giacomo, dimmene un altro. È un pochettino ticchia per i soldi, sai, quando io spendo su una certa. Possiamo andare avanti fino alle 8 stasera. Solo con Giacomo. Giacomo, ci sentiamo prestissimo. Grazie mille. Va bene, ciao Matteo. Ciao Giacomo, buona serata.